Job 24. Bentornati a Job 24. Oggi, come promesso, torniamo a rivolgerci ai giovani alle prese con l'inserimento nel mondo del lavoro. E gli studenti ormai sanno che occorre pensare alle prospettive occupazionali presto, mentre si studia, mentre ci si forma. E un grande dilemma per molti universitari è la scelta tra la laurea triennale e quella specialistica. Prima del nuovo ordinamento non c'era questo problema, ma adesso occorre analizzare cosa serve di più. Approfondire gli studi, specializzarsi ma uscire dall'università più tardi, oppure mettersi sul mercato battendo gli altri sul tempo dopo il triennio. E ancora, come utilizzare lo stage perché sia il più spendibile possibile nel mondo del lavoro? Parliamo di questi temi, a cominciare dalle lauree, con Mariano Arcelloni, partner delle risorse umane di PricewaterhouseCoopers. Ben trovato. Piacere di essere ancora qui con voi. Ecco, lei può naturalmente parlare per quanto riguarda la sua società di consulenza. Verso chi vi orientate normalmente? Quasi al 99% direi su lauree quinquennali, quindi specialistiche. Per due ordini di ragione. Una è che di fatto quasi tutti i ragazzi proseguono a fare anche il biennio specialistico. Chi si ferma dopo i 3 anni sono ancora pochi. Dire che questo è un bene o un male non spetta certo a me. Comunque, di fatto, la gran parte dei laureati è laureata quinquennale. Il secondo motivo è che il quinquennale ha sicuramente, sono 2 anni in più che però danno una maturità in più certamente al ragazzo. Il problema che c'è è il fatto che si è persa un'opportunità a livello di riforma universitaria nel non dedicare veramente il biennio specialistico alla specializzazione, nel senso che il biennio specialistico è spesso volentieri solo un approfondimento di quello che si è fatto nel triennio precedente. L'ideale sarebbe che effettivamente dopo 3 anni i ragazzi venissero indirizzati su percorsi formativi molto indirizzati e specializzati, appunto. Cioè, chi fa marketing vuol fare marketing, fa marketing per 2 anni, chi vuol fare revisione fa revisione per 2 anni. Stiamo parlando naturalmente delle lauree in economia. In economia, però penso che sia altrettanto vero anche in altre tipologie di laurea, penso a giurisprudenza, è un triennio generalistico poi con una specializzazione, non so, in diritto familiare, che nessuna università mi risulta stia offrendo in questo momento, oppure in diritto commerciale, 2 anni di diritto commerciale ed esclusivamente quello, che è quello che poi permette di arrivare a svolgere la professione sapendo già tanto di quello che si andrà a fare. Quindi il messaggio è: impieghiamo un po' più di tempo all'università con sì, la specialistica, e poi e affrontiamo magari il mondo del lavoro. E magari facciamo uno stage durante il biennio specialistico, cosa che attualmente qualche università fa. Ecco, come si sceglie uno stage in vista appunto delle prospettive occupazionali? Lo stage si sceglie per capire dove potrebbe andare a lavorare. È uno strumento per imparare, ma per imparare non solo una parte del mestiere, ma per capire anche l'ambiente di lavoro dove probabilmente o possibilmente si potrebbe andare a lavorare. È una modalità bivalente, cioè permette al datore di lavoro, all'azienda, di insegnare qualcosa al ragazzo e capire anche se il ragazzo è motivato o meno al mestiere. Al ragazzo serve per capire che cos'è il mestiere e capire se l'azienda gli piace o meno. Facciamo un esempio: nel vostro caso, una società di consulenza multinazionale, quanto attingete nel mondo degli stagisti poi per le assunzioni? Beh, noi ne prendiamo diversi all'anno, 200 all'anno di stagisti, con un buonissimo tasso di conversione. Poi gli dipende se parliamo del settore revisione o del settore consulenza. Pigliamo nel settore revisione diversi stagisti curriculari, cioè stagisti che lo fanno durante l'università. Nel settore consulenza ne prendiamo sia curriculari sia non curriculari, quindi dopo l'università. Da noi spesso gli studenti sono anziani, cioè fanno lo stage dopo l'università. All'estero di norma lo si fa durante gli studi. Sì, è vero, e il consiglio che do è appunto di farlo durante l'università. È sicuramente un ottimo tassello da mettere nel proprio curriculum. Anche quando questo non dà crediti? Anche se non dà crediti. E poi mi dice che paga a livello di curriculum. Paga a livello di curriculum, caso? Sicuramente. Beh, certo, sicuramente diamo un peso al fatto che abbia fatto uno stage o meno. Grazie a Mariano Arcelloni, partner delle risorse umane di PricewaterhouseCoopers, per questi suggerimenti, credo preziosi, per gli studenti all'ascolto. Ed è tutto per oggi, ci ritroviamo domani con Job 24. Una buona serata da Roberta Pellegatta. Hi-ho! Hi-ho!